lamelle che si congiungono, e io avevo capito che mi trovo. C'è la presenza con il tono del microfono, quello lì, no, ci ha cambiato due, si rilassano quelle, praticamente lì, se tu lo senti, lei ce la so, ma ogni tanto le lamelle si rilassano, non so perché si rilassano. Come mai, siamo difettosi da una forma che io ho, è strano, E te lo so con le lei, non ci ha comparato lui, dentro gli ha arrivato il suo effetto. E tu ci ha parlato, perché magari una fatta che le è arrivata così, c'era anche una fatta tale piede che le è arrivata che non abitava lì come tu. Ma per carità, mamma mia, buona detta, guarda. Se non mi prendiamo sempre la roba, una volta io ho preso 6 o 7 piede e c'è per corretto di vigilare un po'. Praticamente erano più stretti. E non avvitavano per lo stringeva. Siccome per il microfono ci avevo avuto stronzo, allora io gliel'ho cambiato per andare bene. Ma i vitri avevo, e li ho presi di lì perché avevo il composto che c'avevo. Ma fanno schifo, fanno schifezza. C'ho gli altri che ce li ho, non so come ancora tutto il tempo gioco senza ciabatte, non ho anche mai ciabatte, ma io non sto cantonaggio dei riduttori e coso girano a vuoto, non faceva mettere perché li faceva fare un falso contatto, l'ho dovuto tutti eliminare, erano preso 7-8, ho detto così hanno c'è il più riserva, invece ho fatto un po' l'acqua. Non so, devo guardare, ma non te lo so dire, se ce l'ho. Come che vada, dovrei avere almeno la parte di davanti, quella che è che si rovina. Ma quello adesso, guarda, io ho entrato quello di questo microfono, entra abbastanza, cioè, non so, anche se lo lascio sui tanto, non esce perché è troppo stato con un po' il porto. Ma io, la prima volta è entrato a porto. Adesso guardo se c'ero uno, a 4 e a 4 mi sarà quel mi sarà, perché qua è questo budget dove lo trovo trasferso e gli ho dovuto cambiare, ma una stronzata, guarda che cucinino, perché non mi è mai capitato neanche se allargassero così, addirittura da uscire. Stanno facendo più niente di buono, però se vanno a comprare se ne fanno pagare. Secondo me per papà è una partita che gli è arrivata difettosa, e quando fanno una partita intera così agato a spartirla, se si accorgono che sono difettosi io rimane in un bel tempo. L'unica è adesso un controllo, se non lo trovo io magari da poso. Grassi, non da grassi, da Bertioni, e lui c'ha la roba avanti di magazzino, qui dovrebbe avere roba di vecchia era. Sai, dice che non c'è più quello. Non c'è più grandi, e c'erano i medi piccoli, ma i grandi non c'erano. Il marchio Sant'Andrea non c'è mai la più bella limitata Marizzo, cosa c'ha in diverso dalla ronda. Io glielo so più fatto me, non ho bisogno di un'idea. Io cavale di dinamite, mi devi dare il